Buongiorno a chi ci ascolta e grazie a Radio Onda Rossa che ci permette di condividere questa importante iniziativa che si terrà il 23 marzo in Cascina Torchiera dalle 17. Sarà un incontro organizzato dalla Brigata Basaglia, un gruppo di ascolto e supporto sociale nato ormai 4 anni fa e riguarderà la violenza di genere negli spazi sociali e la sua gestione. Saranno presenti Giusy Palomba, autrice della Trama Alternativa, che si occupa di organizzazione comunitaria, e Mireia Amat, medica formata in antropologia medica e specializzata in diritti sessuali e riproduttivi. Queste due compagne porteranno le loro esperienze nella gestione di episodi di violenza di genere nei loro contesti di militanza. A seguire ci sarà un confronto aperto insieme ad altre realtà politiche, centri sociali e collettivi presenti. Il tema della violenza di genere per troppi anni è stato un tema tabù negli spazi sociali, potremmo definirla un'area cieca, né problematizzata né posta al centro dei nostri ragionamenti politici, ma al contrario, gestita spesso, troppo spesso, senza avere gli strumenti adeguati e a volte mettendo a tacere o liquidando in maniera anche macista episodi di violenza di genere che hanno avuto come protagonisti uomini militanti. Negli ultimi tempi, all'interno di diversi collettivi, ha preso forma la consapevolezza che gli stessi movimenti non siano affatto immuni dalla violenza di genere. Non regge più l'illusione che essere compagne e compagni in lotta per una giustizia sociale renda immuni e faccia degli spazi collettivi luoghi automaticamente privi di dinamiche patriarcali e violente. Anzi, ovviamente non è così. E anche se si attuano processi di decostruzione e di responsabilizzazione, ci vuole parecchio tempo perché si realizzi un cambio della cultura interiorizzata. La violenza di genere è una questione di potere e non possiamo pensare che chi ha questo privilegio da sempre sia disposto facilmente a rinunciarvi, nemmeno nei nostri spazi sociali. L'obiettivo di questo incontro è creare un contesto per confrontarci, comunicare, amplificare la consapevolezza di quello che stiamo facendo, di quello che accade, di come lo abbiamo affrontato finora e come potremmo cercare di farlo in futuro. Nelle persone che hanno organizzato questo evento, nelle persone che parleranno, vengono qui a portare risposte, tesi, modelli definiti e definitivi. Noi siamo convinte e convinti che comunque sia fondamentale superare l'omertà e lavorare su questi temi, a partire da noi, dai nostri contesti, senza cedere a soluzioni semplicistiche e con la consapevolezza che il cambiamento deve iniziare dentro ciascuna e ciascuno per scardinare i meccanismi che ci opprimono e provare a coltivare una trasformazione reale. Non nascondiamo i dubbi e le preoccupazioni che abbiamo nell'affrontare un tema così profondo e complesso perché ci riguarda da vicino e può toccare ferite aperte. Però crediamo che sia sempre più urgente creare questo confronto per affrontare questo tema, cuore della lotta femminista e transfemminista, e di cui anche i posti in cui militiamo e le persone che vivono questi posti devono assumere come propria responsabilità. Noi stesse ci siamo chieste e ci chiediamo se siamo riuscite a trattare questi temi con delicatezza e attenzioni massime, validando, ascoltando, riconoscendo i vissuti raccontati, se abbiamo capito, ascoltato davvero, se ci siamo fatte tutte le domande che dovevamo o potevamo farci. Per cui grazie e speriamo insomma che sia l'occasione per un confronto costruttivo e sincero. E colgo l'occasione anche per ricordare che il giorno successivo, il 24 marzo, sempre come Brigata Basaglia, organizzeremo questo incontro online che avrà come ospiti tante realtà provenienti da contesti diversi del mondo, e che avrà come tema, la salute mentale e i possibili strumenti di cura comunitaria in contesti di conflitto, di guerra e di violenza politica. Grazie.